sono le ore 13:55 di mercoledì 4 luglio, scusate, giovedì 4 luglio 2024. E si avvicina l'appuntamento con i ballottaggi in Francia, direi l'ultimo atto di un tira e molla della cittadinanza politica delle organizzazioni di destra, dopo anni e anni e anni in cui fondamentalmente il principale messaggio della sinistra al potere, o anche dei gollisti al potere, era sempre stato votate noi perché di là ci sono i fascisti. Ecco, io credo che poche cose come il vuoto che si cela dietro questo messaggio abbiano nociuto, diciamo, alle forze democratiche come questo tipo di proposizione politica, cioè la paura del nostalgico, la paura del vecchio fascismo con i suoi riti, spesso anche resi in caricatura, in tempi in cui dovremmo parlare, secondo me, di tutt'altro, perché quello che per esempio con Meloni abbiamo visto qui in Italia, poi sulla nostra pelle, una volta portato a termine il processo di definitivo sdoganamento, non è certo il ritorno del salto alla cavallina e del sabato fascista col Fez, non è questo, anche se ogni tanto ci sono manifestazioni folcloristiche anche a livello locale, evidentemente di personaggi che hanno bisogno di qualche titolo di giornale o di segnalare la loro disponibilità a qualche ballon de sé, ma non è tanto questo ciò di cui dovremmo avere paura, e gli italiani in realtà l'hanno ampiamente capito. Ciò di cui dobbiamo avere paura è quando la politica diventa strumento nemmeno di una generica economia, ma di una certa economia a scapito di un'altra economia, di un certo padrone a scapito di un altro padrone. E temo che sia la stessa cosa che sta succedendo anche in Francia. Le persone nel tempo hanno capito che questo bluff non funziona più, no? Agitare lo spauracchio del simbolo nostalgico. Perché? Perché in realtà in larga misura anche i governi di, diciamo così, di centro, di sinistra, pensiamo a quello che sta per succedere in Inghilterra, tra poco avremo un governo Labour con 20 punti di vantaggio sui conservatori precedenti, ma nel frattempo il Labour è diventato uno strumento del capitale. L'abbiamo visto da Blair in poi. A un certo punto l'avevamo visto anche qui da noi con Renzi, però forse qui da noi non c'è un terreno altrettanto fertile per far passare questa proposta politica e renderla così iconica e vincente. Da noi ha preso delle fattezze folcloristiche anche abbastanza becere, e il personaggio di Renzi le ha davvero personificate in modo quasi inevitabile. E quindi cosa vedremo domenica? Domenica non vedremo la vittoria eventuale, definitiva, con maggioranza assoluta, oppure magari no, scongiurata dalle desistenze delle destre, intese come complesso ideologico. Sarà semmai la vittoria dell'interesse privato. Non a caso una delle principali minacce che Bardel sta già agitando è quella della privatizzazione della radio e della televisione pubblica, in generale dell'audiovisivo pubblico in Francia, che comprende naturalmente anche il potentissimo INA, cioè l'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo. Insomma, si ripete in Francia quello che a un certo punto, per ragioni diverse, è accaduto in Grecia, ricorderete, dopo l'arrivo della Troica, la sparizione della radio e della TV pubblica, e adesso anche in Slovacchia. Questo è un trend, secondo me, molto pericoloso, perché quando poi si afferma, quando la politica afferma che i media, che dovrebbero essere lo strumento di formazione trasparente del consenso e del dissenso, devono essere un'industria, è davvero il problema principale, forse una delle malattie principali delle democrazie e poi delle democrature che le sostituiranno. Perché poi è buffo notare come una delle accuse che venivano fatte per anni, no, alla radio, alla televisione di Stato, erano appunto quelle di essere regime a loro volta. Però in realtà è proprio lì che si trova spesso la missione pubblica, il servizio pubblico. Parlando proprio della Francia, anche noi in Italia perderemo tantissime cose che possiamo vedere, ascoltare e che suonano meravigliosamente diverse rispetto a ciò che normalmente capita davanti ai nostri occhi, no? Penso a una radio come France Culture, penso a una televisione come Arte, penso a France 5, penso a tanti canali radiofonici, musica classica, tutti gratuiti, senza pubblicità. E non credo che ci sia granché da gioire, ecco, se questa è la prospettiva. E soprattutto è questo ciò di cui dobbiamo avere paura, secondo me.